ti wa e te a malinga bomi e Mumi o e selemba Shiri o e selemba Mumi o e selemba Shiri o e selemba Mama ola ima weli sani fonpe wa du e selemba msango e Yeah.